solo i Beatles, no. Io preferisco invece i Rolling Stones. A colazione io sorseggio un tè. Tu invece bevi litri e litri di caffè. Se mangi dolce o salato, smettila di fare muso duro. La ragione non ce l'ha nessuno. Qui tifi è il meglio per te, invece penso sia la peggiore. E se ne può discutere per giorni interi, ma le opinioni resteranno quelle di ieri. Oh yeah. E non pensare sia sbagliato. Scaldarsi per qualcuno, la ragione non ce l'ha nessuno. È inutile additar colpa a qualcuno. È inutile additar colpa a qualcuno. È inutile additar colpa a qualcuno, la ragione non ce l'ha nessuno.